L'argomento in questo è Sì, quello la casa di relativo a riposo, case di diciamo, riposo, partiamo no? dalle. Dove io sono un infermiere, non ci lavoro più da ormai più di 5 anni, ma ci ho lavorato complessivamente 10 anni, 10-12 anni, a Milano. Innanzitutto c'è stata un'esplosione, non ho la minima idea della quantità solamente di investimento immobiliare fatto all'interno di questo settore, con nascita di un sacco di strutture edilizie nuove, con capitali i più diversi. Molti sono francesi piuttosto che tedeschi, credo principalmente francesi, che si aggiungono a tutte le vecchie strutture preesistenti, enormi, pubbliche, enormi, più noto è il Pio Rivolto. Albergo Trivulzio. Altro molto grande, il Redaelli, e poi ce ne sono altri, quasi tutti pubblici, ma in buona parte gestiti secondo dei criteri aziendali privati. Per esempio, buona parte del personale da tempo all'interno di queste strutture è personale delle cooperative. Sono luoghi dove c'è stata nella prima ondata una mortalità altissima. Cosa che crea infatti attualmente a buona parte di queste strutture problemi, problemi proprio dal punto di vista, dice, del timore che non La rientrino nei tenuta, costi. certo. Tutto il sistema di servizi da tempo, anche relativamente e al personale medico e al personale infermieristico, mediamente subappaltato. Molti sono i rapporti di libera collaborazione professionale con i medici. I servizi, quelli mensa piuttosto, molto spesso anche loro da capo. Ma al di là di tutte queste cose, di pulizie, non ne parliamo. Naturalmente tutti questi sono fatti che ovviamente hanno poi dopo una certa importanza quando si tratta di decidere come governare una struttura. Tanto più spezzettato è, tanto più difficile è farlo, tanto minori sono i margini di guadagno, anche perché tutti vengono messi in competizione l'uno nei confronti dell'altro, tanto più difficile adottare poi delle misure che rallentano le tempistiche, tipo fare dei percorsi separati, ma comunque. Ovviamente, no? Questo è. Naturalmente l'epidemia ha preso completamente alla sprovvista un intero sistema, perché questo qui è un sistema fondato per accudire, trattare, conservare l'esistenza, delle persone nell'ambito del trattamento delle patologie croniche degenerative. Esistevano dei problemi di tipo infettivo, tra l'altro molti legati alle antibiotico-terapie che in questi contesti sono assolutamente, così, generalizzate e molto spesso improprie, perché c'è da dire che le RSA sono dei contesti altamente medicalizzati, nel senso che buona parte delle remunerazioni che vengono ottenute sono misurate sul tipo di prestazioni che vengono erogate. C'è un sistema di calcolo che è quello fondato su una roba che si chiama valutazione multidimensionale, dove vengono elencate le patologie della persona e il grado di autosufficienza, no? Che in rapporto al maggiore grado di perdita di autosufficienza, che viene misurata con delle scale, ce ne sono diverse, che riguardano l'attività motoria, l'eliminazione, la capacità di alimentarsi autonomamente o meno, di eliminazione, quindi incontinenza urinaria fecale. Ecco, sulla base del grado di autosufficienza ci sono poi tutta una serie di indici correttivi per cui vengono aumentati i rimborsi, perché si presa. Questo genera naturalmente un meccanismo che ovviamente tutti quanti siamo portati a perdere queste funzioni, no? Assieme alla vista, all'udito, alla capacità di entrare in relazione, eccetera. C'è tutto il capitolo naturalmente della patologia neurologica, no? Per cui invece non funzionando la capacità di, come dire, di orientarsi, di decidere, di essere padrone dei propri movimenti, no? Della propria volontà, ovviamente il grado di dipendenza nei confronti di chi ti garantisce le funzioni vitali aumenta sempre di più. Anche qui c'è un grande problema. Questo succede in parte perché succede, perché è nostro destino, no? È nostro destino morire ed è nostro destino anche perdere progressivamente queste funzioni, tanto più in un contesto altamente medicalizzato, dove il consumo di farmaci è altissimo, ovviamente, no? Però esiste questo meccanismo anche premiale, no? Per cui, facendo l'esempio semplice, dice persona che ha una marcia incerta, rischia la caduta, se tu lo metti in carrozzina, gli metti un bel catetere vescicale, no? Guadagni di più e risparmi sul personale, eh? E questo è quanto naturalmente si verifica con una certa regolarità. Siamo in contesti dove poi ho parlato di tutte le altre figure professionali, ma la figura professionale che effettivamente fa dell'assistenza nei confronti delle persone che stanno in queste strutture sono le cosiddette ASA e OSS, che molto spesso sono in tre e si occupano di 35 persone che devono sfamare con delle tempistiche che sono limitate, devono essere tirati su tutti quanti dal letto, cambiati, lavati, pulite le stanze, portati, alzati non autosufficienti con le modalità più o meno protocollate in ogni luogo, portati nella sala da pranzo, sfamati, tra l'altro tutte queste operazioni qua, è ovvio che c'è una situazione di tipo epidemico, cioè si diffonde qualsiasi cosa immediatamente. Questo per quanto riguarda l'aspetto, diciamo così, dell'epidemia in corso, e Ecco. precedenti, eccetera, no? Secondo me una delle cose che andrebbero fondamentalmente ridiscusse, io sono dell'idea che le RSA andrebbero chiuse, ma è un pio desiderio, non fa i conti con la realtà e con la disgregazione sociale generale dei nuclei familiari, della mancanza di strutture collettive sul territorio, tutte quelle robe lì, quindi ci sono e ahimè ce le probabilmente dobbiamo tenere. Però una cosa che, considerando la quantità di denaro che gira e considerando la natura dei problemi che esistono, è che andrebbe completamente cambiata l'organizzazione del lavoro, no? Andrebbe aperto molto di più alle realtà esterne, perché sono delle istituzioni totali, dei luoghi chiusi. In parte si fa, ma si fa semplicemente per la festicciuola, per il prete che viene, no? Ma rispetto alle dinamiche di funzionamento reale, questo rapporto con l'esterno viene, anche dal punto di vista, visto che si fa tantissima terapia medica, dell'appropriatezza delle terapie. Inutile dire che, per esempio, nessun problema relativo alla nazionalità, ma la quantità di medici e di infermieri che in realtà non hanno né diplomi, non sono laureati, è altissima. Questa è un'altra cosa, è un'altra, che prendono pochissimo, che molto spesso hanno un livello di preparazione professionale bassissima. Il problema, naturalmente, io sono anche dell'idea che a volte succede che l'infermiere che non è diplomato può essere molto più bravo di quello più diplomato, non è questo il problema. Il problema è che, per le ovvie ragioni, i turni, c'è gente che lavora in 4-5 posti diversamente, che non stacca mai, e questa è non l'eccezione. È quasi per molti la normalità, naturalmente per quelli i cosiddetti liberi, se questi sarebbero i liberi professionisti, no? Poi c'è l'altra realtà di quelli a contratto, e allora lì C'è ci maggiore stiamo. tutela. C'è maggior tutela da parte dei turni, eccetera, e c'è anche, naturalmente, poi per questi ci sono dei tassi di assenteismo altissimi, perché questa è l'altra cosa che succede, che chi è garantito è. Ovviamente gli strumenti di garanzia che ha a disposizione li usa e molto spesso ne abusa. Ovviamente è inutile anche ricordare che, forse non è chiara questa cosa qua, che non è bellino stare in contesti del genere, ha a che fare con la morte, con la demenza, con la merda, quotidianamente, con delle gestioni gerarchiche per cui chi sta sopra scarica su quello che sta sotto, no? Non lo so, un uso assolutamente esagerato, parlo soprattutto per le strutture private, per le pubbliche molto meno, delle ammonizioni, delle lettere di richiamo, delle minacce di sospensione, eccetera. No, questo anche per quanto concerne naturalmente, è facile, l'anziano è caduto, ovviamente. Al di là della roba lì, dice, lo mettiamo sulla sedia così non si muove più, siamo a posto. Naturalmente c'è tutta una retorica sul contrario, su questo, sono scritto per l'amor del genere, quando si fa la valutazione multidimensionale si scrive sempre mantenimento delle funzioni residue, che, ma fa parte della... dell'abitudine grammaticale, ecco, sono quelle robe che devono andare in regione, però come farai mai a mantenere delle funzioni residue di una persona che cammina male quando hai 3 persone che lavorano in reparto e ci sono 25 persone da accudire? Dice, ma è certo che appena possono lo mettono in carrozzina, se cadono poi si prendono il provvedimento disciplinare. Ci sarebbero delle strategie, ma richiederebbero naturalmente tutti questi approcci individuali, individualizzati, no? Che naturalmente, insisto, 3 su 25, perché poi l'infermiere quel che fa è somministrare terapie infinite, anche quelle ti portano via un sacco di tempo, perché se c'hai una media di 12 farmaci per persona, vai a dare questi 12 farmaci, a inseguire, a dare. In tutto questo, naturalmente, il dolore, i problemi e il fatto che la gente muore, moriamo perché moriamo, non c'è nessuna preparazione sull'argomento. Concluderei, ce ne sarebbero da dire un sacco di robe, che però sarebbe obbligatorio, visto che sono tutti convenzionati, che ci fosse una formazione obbligatoria del personale sulle cure palliative. Il problema si tratta di capire che sono dei contesti difficili in cui di confronto ce ne vorrebbe tanto, in cui dei controlli non ci sono. Ci sono i controlli dei NAS, certo, tutti, certo, e riguardano i farmaci, la loro conservazione, il fatto che siano non siano scaduti i presidi, tutte quelle robe lì, per il controllo che le cucine siano a norma, quelle robe lì, questo, Ma sull'organizzazione del lavoro ovviamente non c'è. Sì, ci sono naturalmente dei numeri che devono risponde, quindi un certo numero di operatori per assistiti, ma la realtà, cioè le realtà generalmente sono ovviamente molto diverse anche da quei numeri che vengono presentati. Tutte queste figure intermedie caricano di lavoro vieppiù gli OS, gli ASA, eccetera, no? OS e ASA che peraltro per entrare all'interno di queste strutture fanno dei corsi che devono pagare, Non questo con la privatizzazione della formazione della Regione Lombardia, una volta venivano fatti gratuitamente. Per esempio, quelli delle cure palliative, che ci sarebbe molto da discutere sul fatto che si è creata un'ulteriore specialità, ma anche gli specialisti del settore sanno che non possono risolvere loro questo problema. Cioè si muore e si muore malissimo, si fanno delle cose terribili. Adesso io avevo parlato della contenzione, quello non era tanto un tema, diciamo così, di terminalità, no? Invece molto spesso in questi posti si muore e non c'è nessuna preparazione, cioè quindi uno non viene né rianimato né viene trattato il dolore né viene creata una situazione in cui uno possa morire decentemente senza tentando di ridurre al massimo la sofferenza, no? Questa roba qua non c'è, proprio non appartiene. A parte che non viene mai trattato l'argomento, uno sta morendo, tutte le volte sembra un incidente improvviso che uno dice non sa come mai succede, peccato che succeda, no? E tutti si girano dall'altra parte, quindi si incomincia l'ossigeno, delle flebo che non servono a niente, di mettere dei sondini nasogastrici per alimentare. Poi si fanno quelle terapie, dice, a metà, che non servono a niente, no? Proprio gli fai un po' di cardioterapia, gli fai un po' di diuretico, gli fai un po' di questo per aver scritto qualcosa e detto che hai fatto qualcosa. Però nel frattempo questo, se è sfortunato, muore in mezzo a piaghe da decubito, che inevitabilmente si formano in una situazione del genere quando uno incomincia a non mangiare più, eccetera, eccetera, per quanto sia migliorata da questo punto di vista la situazione nel caso di riposo, perché sono finalmente stati presi letti e ci sono in generale un pochino più di materassini antidecubito, però quando entri in fase terminale si fanno, non mangi più, va in catabolismo negativo e si forma. Comunque l'altro problema vero poi è che esiste tutto un armamentario anche terapeutico che permette di ridurre significativamente il dolore. Tra l'altro, molto spesso quando si hanno degli interventi di tipo palliativo, mediamente si vive anche molto di più alla fine, senza inutili interventi che terapeutici non sono.